Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È l'aprile del 1849. Contro la Repubblica Romana arrivano i francesi, Garibaldi li respinge. Venezia, sotto assedio austriaco, dopo 10 giorni cade Brescia. Violentissima repressione a Genova, il generale La Marmora fa un massacro. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura andiamo a Roma, dove si sono verificati degli eventi imprevisti. Il neopresidente francese Luigi Napoleone Bonaparte, per tenere sotto controllo un'assemblea a maggioranza conservatrice, si sta muovendo in appoggio al Papa. Un corpo di spedizione guidato dal generale Udino ha preso Civitavecchia, ma si è presentato come protettore della Repubblica. E poi, come sentite dall'audio, sbarcato, ha tentato l'ingresso a Roma da Porta Cavalleggeri con 6.000 uomini, trovando una resistenza accanita, in particolare dalla Legione Italiana di Giuseppe Garibaldi. In fuga sono stati inseguiti dai garibaldini. Mazzini, a capo della Repubblica Romana, ha bloccato appunto Garibaldi e i suoi, si immagina di poter trattare una tregua. E prosegue intanto l'assedio degli austriaci a Venezia, mentre è fallita dopo 10 giorni la resistenza della città di Brescia ai soldati di Vienna. I bresciani avevano avuto notizia falsa che il Parlamento piemontese avesse rigettato l'armistizio firmato da Radetzky e Vittorio Emanuele II. Gli austriaci hanno rotto le difese bresciane il 1 aprile e si sono dati alle violenze e al saccheggio. 1.000 i morti, appunto, tra i bresciani. E centinaia sono le vittime a Genova per la dura repressione piemontese. La sconfitta di Novara continua a produrre frutti tragici per il regno di Sardegna e ancora una volta gli austriaci c'entrano solo in parte. A pagare un terribile prezzo di sangue e violenza è stata la città di Genova e il suo carnefice è stato lo stesso esercito sardo-piemontese che, inviato a riportare l'ordine, si è lasciato andare a un saccheggio terrificante. I fatti sono questi. La notizia della sconfitta, dell'abdicazione di Carlo Alberto e dell'armistizio ha raggiunto Genova il 27 marzo. La reazione del popolo, della municipalità e della Guardia Nazionale è stata di voler resistere a un eventuale attacco austriaco, unita alla richiesta inviata a Torino di portare sotto la lanterna il Parlamento. Ma si è anche creato un governo autonomo e sono scoppiati tumulti. E così, complice la confusione nel regno, ma pure lo spirito autonomistico dei genovesi, la città è di fatto insorta e il governo di Torino ha inviato il generale Alfonso La Marmora con l'esercito sardo e il corpo speciale dei bersaglieri per domare l'insurrezione. Gli scontri tra genovesi e sardo-piemontesi sono stati durissimi. L'artiglieria piemontese, appoggiata da un vascello britannico, ha bombardato la città. Un brigantino americano ha portato aiuto agli insorti. Poi c'è stata la presa della Porta della Lanterna. E mentre ancora si combatteva per i forti, a Genova le truppe piemontesi hanno scatenato un saccheggio che ha insanguinato strade e piazze. I morti sono probabilmente superiori al migliaio e a macchiarsi dei delitti più infami sono state truppe che in altre occasioni avevano dimostrato ben altro valore. Paolo Piacenza e il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate sul nostro sito www.radio24.it, da dove potete scaricare il nostro quotidiano. Andate a visitare la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento, fatelo sul nostro blog. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.